da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da da da da da di da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. 2000 enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you.